Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, puntata numero 450, nella quale parleremo di un alce nel Vermont, tanti gabbiani a Roma, cani giapponesi, ma anche buona cucina e ottimi libri. Speriamo di avervi incuriositi. Dedichiamo questa puntata all'alce senza nome morto annegato nel lago Champlain, nello stato del Vermont, negli Stati Uniti d'America. L'alce è morto dalla fatica dopo essere stato costretto da una folla curiosa ad attraversare a nuoto il lago Champlain. L'animale aveva già attraversato una prima volta il lago a nuoto, raggiungendo la riva in corrispondenza di una pista ciclabile. Qui, secondo quanto ricostruito, un gran numero di curiosi avrebbe cercato di scattare delle foto all'alce, respingendolo nuovamente verso l'acqua. La seconda traversata è stata letale per l'animale, che probabilmente, esausto per il troppo sforzo, è annegato. La cosa migliore da fare in questi casi è stare distanti, ha dichiarato la Guardia Forestale, perché se l'alce si sente minacciato, potrebbe difendersi in modo aggressivo. Ecco, queste dichiarazioni ci sembrano particolarmente paradossali. A morire è stato l'alce, ma sembra che la sua vita ormai perduta abbia valore solo come monito per la nostra sicurezza. Nonostante le evidenti responsabilità di chi ha molestato e fatto morire questo animale selvatico, non solo nessuno pagherà per il suo sguardo sul mondo irrimediabilmente perduto, ma c'è il serio rischio che i suoi molestatori pensino di essere vivi per miracolo e di avere riportato a casa quei selfie e quelle foto a proprio rischio e pericolo. Chissà se mostrandole ad amici e parenti si sentiranno eroici per aver riempito di terrore un animale così pericoloso. Abbiamo detto tante volte, questa trasmissione cerca di dare voce al variegato movimento animalista, antispecista e vegan, una galassia di persone e organizzazioni ricca di buoni propositi, ma spesso povera di strategie, frammentaria, disomogenea e molto discorde. Recentemente è uscito un libro che è dedicato proprio a questo complesso movimento, analizzato per la prima volta con gli strumenti della ricerca sociale. Abbiamo intervistato il suo autore e il servizio è a cura della nostra Roberta Marino. Sono in compagnia di Nicolò Bertuzzi, appena terminata la presentazione del suo libro, I movimenti animalisti in Italia. Come mai hai pensato, tu comunque che ti occupi di sociologia a vari livelli, di occuparti però proprio specificatamente dei movimenti animalisti. Per quanto la questione animale sia affrontata da varie discipline, mancava uno studio quindi legato a una descrizione a livello nazionale italiano rispetto agli individui che si occupano di animali non umani a livello di attivismo, quindi uno studio legato alla branca dei movimenti sociali, che è il mio settore disciplinare. Le principali fonti di dati sono un questionario strutturato a livello nazionale e invece un approfondimento cosiddetto qualitativo, quindi condotto con interviste presenziali nella città di Milano e dintorni. È una città con una fortissima tradizione a livello italiano e quindi sembrava un ottimo caso su cui soffermarsi. Rispetto a quello che è stato analizzato anni fa da Sabrina Tonutti nel suo testo Diritti animali, storia e antropologia, che risale ormai a una decina abbondante di anni fa, che cosa emerge? Il lavoro di Sabrina è un lavoro molto legato alla storia del movimentismo animalista in Italia, con un'analisi molto approfondita di documenti, e quindi era più legato, se vogliamo, al passato rispetto a quando è stato scritto, che è il 2007. Il mio libro ha una piccola parte storica, ma è più che altro soprattutto concentrato sul qui ed ora, cioè cerca di fare una fotografia dei giorni nostri. Certamente ci sono alcuni elementi che, rileggendo il suo volume dopo aver scritto il mio, possono essere visti come delle evoluzioni rispetto a quello che diceva lei. Ad esempio, la dimensione online era definita da Sabrina meno centrale rispetto a quella di altri movimenti sociali. Nel frattempo, oltre all'evoluzione che ha avuto l'animalismo, banalmente siamo incorsi in una stagione di movimentismi che si è diffusa tramite la rete, che è quella delle primavere arabe del 2011, in cui appunto internet è diventato un elemento centrale per la diffusione dei movimenti sociali nell'animalismo. Sappiamo benissimo che questa cosa è altrettanto forte. Una cosa invece, ad esempio, che va nella stessa direzione di quel libro è l'aumento di gruppi anche locali e, se vogliamo, più conflittuali rispetto invece a una tradizione legata ai decenni precedenti, in cui la tematica animalista era portata avanti da grosse sigle nazionali di tipo istituzionale e lobbistica. Invece adesso queste due anime convivono parecchio. L'evoluzione comunque del movimento, anzi dei movimenti animalisti, è andata in che direzione? Io penso che sicuramente l'assenza di grosse campagne abbia fatto perdere una certa dimensione collettiva, e allo stesso tempo il ruolo centrale che stanno assumendo internet e veganismo sono chiaramente due cose molto legate a una dimensione di attivismo individuale. Ha la conseguenza di provocare un'atomizzazione a livello di movimento e un investimento molto più forte sulla propria advocacy a livello individuale e meno invece sulla conduzione di attività di gruppo, collettive, che caratterizzavano, se vogliamo, invece il periodo già legato alle grosse campagne. Mi riferisco a Fermare Green Hill, un po' prima a Chiudere Morini. Avevano anche probabilmente la capacità di creare una sorta di identità collettiva, o comunque di autoriconoscimento agli attivisti, quando invece adesso probabilmente la mancanza di questi momenti, di questi contenitori, ha provocato un ripiegamento invece più sulla dimensione individuale. Side, with no one to guide me, torn apart by a fiery wheel inside me. I won't hurt you, I won't hurt you, I won't hurt you, I won't hurt you. An untouched diamond that's golden and brilliant without illumination. Your mouth's a constellation, the stars are in your eyes. I'll take a spaceship and try and go and find you. I won't hurt you, I won't hurt you, I won't hurt you. Giovedì 4 settembre sul sito internet del New York Times abbiamo trovato un articolo dedicato ai gabbiani di Roma, definiti come predatori che hanno colonizzato aggressivamente una città distante 20 miglia dal mare. Gli stiamo facendo capire che Roma è la loro casa, dice Francesca Manzia, etologa e direttrice del Centro Fauna Selvatica LIPU di Villa Borghese a Roma. E loro si comportano di conseguenza. Secondo alcuni esperti, la popolazione di gabbiani a Roma è cresciuta negli ultimi anni fino a raggiungere le decine di migliaia. Anche la loro dimensione fisica è cresciuta perché il buffet della spazzatura è sempre ben fornito, per non dire degli spuntini gentilmente offerti da turisti e passanti. Le discariche e i cassonetti rappresentano per i gabbiani ottimi motivi per non sprecare tempo ed energia alla ricerca dei pesci. Un cibo più sicuro, anche se meno sano, come ben sappiamo noi umani moderni che preferiamo spesso il cibo spazzatura precotto alle materie prime da trasformare. Quello di cui c'è bisogno non è un piano di abbattimento, ha ripetutamente spiegato Francesca Manzia ai funzionari del Comune di Roma, bensì occorre tenere pulita la città, educare le persone a una convivenza sostenibile se davvero vogliamo contenere in modo efficace e duraturo la popolazione dei gabbiani. Nel maggio 2017 l'amministrazione del sindaco Virginia Raggi ha onorato la sua pagina Facebook ufficiale con la foto di un gabbiano in posa trionfante sul foro. I gabbiani sono arrivati risalendo il fiume Tevere e la notizia della generosità dei cassonetti e delle discariche della zona deve essersi propagata rapidamente richiamando altri uccelli. La discarica di Malagrotta alle porte di Roma, la più grande discarica d'Europa fino a quando le autorità non l'hanno chiusa, ha sicuramente contribuito ad attirare i gabbiani in massa. Dalla sua chiusura nel 2013, la spazzatura non raccolta di Roma ha rappresentato un buon ripiego. Il Vaticano poi ha aggiunto altre prelibatezze al menù. Sembra che nel gennaio 2014, durante una preghiera domenicale per la pace in Ucraina, due bambini che affiancavano Papa Francesco abbiano liberato alcune colombe bianche che sono state subito predate dai gabbiani e fatte a pezzi sotto gli occhi angosciati dei presenti. La signora Manzia della LIPU ha più volte chiesto ai funzionari vaticani di non liberare colombe bianche allevate in cattività perché queste non sanno difendersi e sono facili prede per gabbiani, cornacchie e altri uccelli predatori. Ma il Vaticano insiste. Quel che è certo è che per i gabbiani esiste solo la legge della selezione naturale. Non possiamo incolparli di seguire il loro istinto, proteggere i loro piccoli e godersi la dolce vita romana. La nostra è una redazione composta principalmente da donne agguerrite, che però hanno i loro punti deboli. Una delle colonne è senz'altro Roberta Marino. Uno dei suoi punti deboli, il cantante dei 30 Seconds to Mars, che sicuramente è andato a vedere a Verona per vedere di strappargli la tutina di dosso, oltre che sentire le canzoni di questo artista che, oltre a cantare, fa anche l'attore. In particolare ne parliamo perché è vegan, ambientalista e con il suo gruppo ha prodotto di recente un album che si chiama America, da cui ascoltiamo uno dei singoli, Rescue Me. Roberta, confessa, sei riuscita ad andare a cena con lui? Buon ascolto. Save your soul. Rescue.

Con le mani inumidite formate delle palline e friggete in immersione in olio molto caldo per pochi minuti, fino a quando saranno ben dorate. Scolate, fate asciugare su carta per frittura e servite calde, con un pizzico di sale in superficie. Del mondo del cinema a quelle del mondo della moda. Preferisco andare in giro nuda piuttosto che indossare pellicce, recita così lo slogan di una celebre campagna dell'Associazione Animalista Internazionale PETA. E la PETA può giustamente accreditarsi parte del merito della buona notizia che ci accingiamo a darvi. Quest'anno, in un'intervista a sorpresa al magazine britannico 1843, Donatella Versace aveva sancito la svolta animalista del marchio italiano. Questa nuova sensibilità sta convincendo una casa di moda dopo l'altra, al punto che la London Fashion Week, la settimana della moda d'oltremanica che si apre venerdì 14 settembre, sarà la prima a essere completamente no fur, cioè pellicce free. Durante la rassegna saranno bandite le pellicce in passerella. Tutto il merito va a un sondaggio portato a termine dal British Fashion Council tra i designer presenti all'evento. La svolta epocale, dichiara l'organizzazione che cura questa Fashion Week, riflette un cambiamento culturale basato su ideali e scelte da parte di designer, grandi marchi e consumatori. Ma non è tempo di cullarsi sugli allori, diciamo noi. Dopo le pellicce bisogna rilanciare affinché i grandi marchi della moda, quelli che stabiliscono le linee guida di tutta la produzione di abbigliamento mondiale, rinuncino anche alla vera pelle. E ottenuto quel traguardo, dovremo occuparci della seta e della lana. La strada davanti a noi sembra essere ancora molto molto lunga. Non vediamo l'ora di portarla fino in fondo. I'm going away, smiling, thinking of our life, how we were good for each other, how we knew. When I came to you, I was all black and blue. You just smiled and said your love was true. We had a great time, didn't we? Never knew this was how it would be. E siamo in chiusura, vi saluta la nostra redazione al completo che è composta da Elisa Moretti, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 451 della trasmissione Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti. Stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.